Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sull'Estolmore Rock. Introduzione brevissima perché siamo qui in collegamento con Enrico ed Elisa dello Sfastidios, che sono in una situazione un po' particolare in questo momento, ma ce lo spiegheranno anche loro dove sono di preciso. Ciao ragazzi, come va? Hola, ciao carissimo, ciao Danilo, ciao a tutti gli ascoltatori. Siamo a Barcellona, ciao Barcellona in Catalogna. Siamo all'ultima data di questi tre giorni on tour, diciamo, nella penisola iberica, e abbiamo fatto prima di questo concerto altre due date in quelli di Castellón della Plana, vicino a Valencia, e ieri alla Bisbal del Fondà, e questa sera qui, questo, diciamo, early show in Barcellona alla Descomunal. Qua siamo fuori dal locale, dentro la sala gremitissima, bellissima situazione, come tutte le date, diciamo, del tour Los Fastidios di quest'anno. Una soddisfazione immensa, veramente. Fantastico, io ti ringrazio anche per questo sbattimento, voi che vi siete anche fatti, perché dato che tra poco più o meno dovete salire anche sul palco, quindi andremo un attimo un pelo più veloci, magari una prima parte dove metteremo pochissimi pezzi, se non quasi nessuno, perché così cercherò di stare più in contatto con voi. Nuovo album, ci siamo messi d'accordo perché siete usciti con il nuovo album con i Los Fastidios, che si chiama Revolt, questo EP allungato, diciamo, perché non sono tantissimi pezzi questa volta, una decisione un po'... No, diciamo che è stato praticamente un regalo che abbiamo voluto fare alla moltitudine di fans, di sorelle e fratelli Los Fastidios, che ci seguono con tanta passione ovunque nel mondo. Volevamo uscire con qualcosa di nuovo, è già praticamente quasi pronto, e l'album nuovo ufficiale uscirà nel 2024. Abbiamo voluto realizzare questo mini album che sta veramente facendo la gioia di tanti amici, e questi 8 pezzi, alcuni registrati un anno fa, alcuni registrati quest'anno, e sono contento perché sta rispondendo benissimo sia dalla critica che dal pubblico. Questi 8 pezzi stanno segnando un ulteriore pezzo di storia dei Los Fastidios. Oh, bene, mi fa piacere. Quindi sostanzialmente dico che ci risentiremo anche per il 2024, quando uscirà anche il nuovo album, perché poi meno male ci sentiamo sempre per portare avanti un po' queste date. Siete in continua scrittura sostanzialmente, perché come mi dici spesso, ogni volta che ci sentiamo, il mio album preferito dello Sfastidios è quello che verrà, quindi il tuo preferito sarà il prossimo, sostanzialmente. Bello questo, ma il prossimo. Bravissimo, quello che hai imparato la lezione. Il miglior album dello Sfastidios è sempre il prossimo. Per il momento siamo molto soddisfatti, diciamo, del risultato dell'odierno, diciamo, dell'ultimo. Allora, qua gli amici, e qua è proprio diretta, qua siamo proprio live fuori dal concerto. Hanno appena finito il Sucio 13, bellissima band di Madrid, situazione bellissima, Sucio 13, con il quale abbiamo diviso questo fine settimana on tour, diciamo, nel sud della Spagna. Come dicevi tu, appunto, il miglior album è sempre il prossimo dello Sfastidios, però questo nuovo Revolt ci sta dando delle grossissime soddisfazioni. Lo stiamo portando già in giro da un mese e mezzo, da quando è uscito, e la cosa bella è che ovunque suoniamo la gente risponde cantando a memoria i pezzi nuovi, e questo è un ottimo segnale. Siamo contentissimi, il pubblico è contento, e quando noi rendiamo la gente felice, siamo, non ti dico a metà dell'opera, ma ben oltre. Perché per noi è importante questo, rendere comunque la gente che partecipa ai nostri concerti, che segue lo Sfastidios, felice. Quando riusciamo a strappargli un sorriso, anche se magari stanno passando un momento difficile, cazzo, doppiamente bello, perché per noi la musica è questo. Prima di tutto è divertimento, senza dimenticare messaggi, valori, tutto quanto, ma prima di tutto divertimento. Quindi la musica, come dico sempre, ci aiuta sempre in ogni momento, nei momenti belli e nei momenti difficili. Ed è bello vedere come questo Revolt, seppure di 8 pezzi, stia riscontrando un ottimi consensi ovunque. Quindi siamo più che soddisfatti. Dammi la guarda, la mola, ecco, un macco! Ecco qua uno del Suzio 13. We are live in interview live. Un placer. Intervista live con una grande radio italiana. Oh! Loro Suzio 13, abbiamo condiviso con loro tre concerti in questo tour, bellissimo. Suzio 13 e Los Fastidios, un ottimo combo. Un placer. Yeah. Grande, fantastico, si vede che vi state divertendo ed è, ti giuro che è molto bella questa situazione che si è involontariamente creata, perché quando ci eravamo messi d'accordo su quando chiamarvi non sapevo, e probabilmente anche voi non sapevate, che aveste dovuto suonare in questo orario, quindi ti ribadisco il concetto che mi fa piacere del vostro sbattimento. Spero che tu abbia ancora un po' qualche minuto prima di, come dicevamo prima, magari passarmi Lisa per così continuare un attimo anche l'intervista. Rivolte con Rivolte, effettivamente, che avendo chiamato l'album Rivolte, cosa volete dire? Cosa significa per voi Rivolte in questo momento? Allora, se tu leggi la parola Rivolte, puoi vedere che leggendo quattro lettere al contrario viene fuori la parola love, e questo dice tutto, dice proprio il messaggio di questo album: Rivolte, love. Terry Hall ce lo insegnava sempre. Terry Hall ce lo insegnava sempre alla fine di ogni concerto dei The Specials, finiva il concerto dicendo love, love, love. Ultimamente invece io sto ultimando i concerti dicendo Rivolte, Rivolte, Rivolte, love, love, love. Penso che chi conosce Los Fastidios ha capito perfettamente il messaggio. Noi abbiamo sempre queste cosine, a noi piacciono molto questi messaggi, chiamiamoli subliminali, possiamo chiamarli subliminali, non lo so neanche io. Però mi piace e mi piace anche quando il pubblico è attento e capisce ogni riferimento nelle canzoni e negli album Los Fastidios, che non sono casuali, sono puramente voluti. Perché noi diciamo sempre che non vogliamo insegnare nulla a nessuno, vogliamo solo riuscire a tramandare, soprattutto alle nuove generazioni, da dove siamo arrivati noi. Quella che è stata la musica che ha segnato la storia di tante subculture giovanili, niente di più, niente di meno. Quindi Rivolte, Rivolte, Rivolte, love, love, love. Perché la musica può tutto. E la musica è forza, la musica è unione. La musica unisce a distruggere le barriere contro il razzismo, contro ogni intolleranza, contro il fascismo, contro il sessismo, contro l'omofobia. Oggi più che mai contro ogni guerra. Per i diritti umani, per i diritti per gli animali, la musica può tutto. La musica non ti tradisce mai. La politica spesso, purtroppo, sì, ti frega. La musica invece è sempre con te, in ogni momento della tua vita. Momenti belli e momenti brutti. Anzi, nei momenti brutti ti aiuta a superarli. Bel messaggio, anche perché quindi non è nulla buttato. Non è nulla buttato al caso, perché obiettivamente adesso che mi ci fai pensare, anche un po' ci sono un po' i titoli che dell'album, tipo una che ho messo che magari poi ci andiamo a ascoltare, che I don't wanna say to you goodbye, quindi anche questo sicuramente parla di qualcuno affettivo, di qualche riferimento affettivo. Poi c'è anche Only You all'interno dell'album, quindi tutti i riferimenti effettivamente al volersi bene, a... Mi piace non avere... Vai. Assolutamente. Noi crediamo che la musica prima di tutto sia divertimento, e continuiamo a predicare questa cosa. Poi per noi è importante anche il messaggio, perché comunque il messaggio è importante. La musica per noi è la nostra arma, le parole, le liriche sono i nostri proiettili, che non fanno male fisicamente, ma possono aiutare a far pensare, possono colpire nella mente e colpire nel cuore, e questo è quello che vogliamo fare. Noi siamo dei poveri musicisti in giro per il mondo e portiamo in giro il nostro messaggio, ed è bello vedere come la gente recepisca questo messaggio e capisca perfettamente quello che vogliamo dire. Siamo stati anche recentemente in Latino America, e anche là una cosa fondamentale, grande. Uno ha appena visto un ragazzo che ha appena scritto: questa musica ti appartiene, nei messaggi. Esatto, lo ripetiamo ogni sera, ad ogni concerto. La musica appartiene a noi, appartiene ai ragazzi. Io non sono più un ragazzino, però la sento ancora mia. Appartiene a tutti quanti noi, non appartiene alle multinazionali della musica, non appartiene a chi vuole sfruttare la musica per propri motivi, appartiene a chi la fa. E noi siamo orgogliosi di questa cosa, perché noi sai benissimo che siamo una band indipendente al 100%. Ci autogestiamo di tutto e per tutto. Crediamo nella forza della musica, seccamente. La musica ce l'abbiamo nel sangue, come tutti quanti voi. Certo. E tenetevela nel sangue, perché la musica è la cosa più bella che possa esserci in questo mondo. Perché viviamo tutti i giorni, moriamo una volta sola, quindi viviamo tutti i giorni ascoltando della buona musica. Benissimo, io ti interrompo brevemente, così vado a mettere un pezzo, tanto c'hai un attimo, qualche minuto in più, vero? Come sei messo tu, sì, più o meno? Non lo so. Non lo sai? Non lo so. Al massimo. Sono in ritardo, perché pensavamo, cari amici, pensavamo che in Spagna gli orari fossero un pochino... Un po' così. Un po'. Diciamo un optional, e invece devo dire che anche la Spagna è cambiata. È diventata molto svizzera a livello di orari, molto molto svizzera. Addirittura il gruppo Sucio 13, con il quale abbiamo condiviso queste tre date, hanno iniziato prima del previsto e hanno terminato prima del previsto. Comunque qua la situazione è bellissima, siamo alla Descomunal, una sala molto bella qui nel centro di Barcellona, carichissimo, l'ambiente è carico, concerto domenicale, un early show, perché tutto comincia un po' prima stasera, per finire prima, e bello, bello. Beh, sono proprio contento. Il tempo di mettere un pezzo ce l'ho, che così intanto chiacchieriamo io e te. Allora, mettilo, dopo non so se ci sarò io o ci sarà Elisa. Va benissimo. Vediamo quel che succede, va bene? E siamo sempre in collegamento con Enrico, che riuscirà a mantenersi ancora in collegamento con questa bellissima atmosfera che ci sta regalando in questo live di... dove tra poco andranno sul palco salutando un sacco di gente spagnola che probabilmente non sta neanche capendo cosa sto dicendo, ma va bene lo stesso. Dato che ne hai parlato prima, ufficialmente il prossimo disco 24 generico o avete già una data? No, 2024, adesso non possiamo dirti la data. Stiamo già lavorando sul disco nuovo. Sai che noi non siamo mai fermi. Ah no. Perché comunque riusciamo, è bello. Bella questa cosa, perché comunque siamo sempre in tour. Anche quando siamo usciti con questo Revolt, moltissimi amici ci hanno scritto e hanno detto: ma ascolta, ma quando caspita avete avuto il tempo per registrare questa cosa? Noi troviamo sempre il tempo, perché comunque ogni tour, ogni concerto che andiamo a fare è il concerto, è qualcosa di nuovo, dobbiamo imparare qualcosa di nuovo e ci dà sicuramente stimoli e anche idee per scrivere nuovi pezzi. Ed è così, la nostra vita è così, la nostra vita è on the road, tra la strada e lo studio di registrazione. Quindi bellissimo. È bello, perché comunque un sacco di idee, la musica. Qua mi stanno dicendo 5 minuti si va sul palco. Ok. Allora, okay. Siamo in diretta, live with the radio in Italia. Ciao. Ok, allora ti... organizzatore. Perfetto, allora ti rubo un attimo un altro paio di minuti, che così poi ti lascio andare al live, e spero che tu riesca a girarmi un attimo Elisa, che così continua un altro pochettino lei almeno fino alle 7, poi dopo anche, so che anche lei salirà sul palco. E ho notato, anzi mi è stato fatto notare da un amico che ci stava seguendo anche prima, che aveva scritto che ci sono due pezzi che avete ripreso, che nello specifico è Antifa Hooligans in versione ska, e invece c'è anche Solidary Ska, che anche questa è una versione diversa di due pezzi. Allora Antifa Unica Ska l'abbiamo realizzata, era da pezzo che volevamo fare la versione ska, perché racconto questo aneddoto. Ci è successo qualche anno fa di suonare a un festival ska, di fare una scaletta 100% pezzi in levare, e quella volta, la prima volta che non abbiamo fatto Antifa Unica. E questo ci ha fatto pensare, ma come? Non è possibile. Antifa Hooligan è un pezzo che potrebbe essere suonato in qualsiasi stile musicale, dal punk all'hip hop, dall'hardcore alla musica lirica, dal reggae a quello che vogliamo. Abbiamo detto, ma ascolta un attimo, facciamo questa versione ska, proviamoci, secondo me viene fuori una bella cosa, e così è stato. Infatti l'abbiamo proposta poi in un successivo festival ska in cui abbiamo suonato, la risposta è stata meravigliosa, quindi abbiamo capito che era l'ora di creare questa versione che sta riscuotendo comunque ottimi consensi. È sempre un bel messaggio, bello tosto nell'album, e niente, ci sta regalando le belle soddisfazioni. Solidarisca era un pezzo che era uscito invece solamente su un 7 pollici benefit per dei compagni bielorussi che erano stati messi in galera, che necessitavano di aiuto legale, e quindi avevamo fatto questo pezzo per questo 7 pollici. Non è mai uscito su qualcosa di ufficiale, lo Fastidious, quindi essendo un pezzo per noi molto importante, che ha segnato comunque un momento importante della nostra storia, perché per noi musica è solidarietà, ci tenevamo comunque a inserirlo, diciamo, nella discografia ufficiale, diciamo qualcosa in un album, non come in questo caso in un mini album, ma come Revolta. Questa è la storia, diciamo. Ok, ok, bello, ci sta, ci sta. E ho notato che avete anche praticamente tutto inglese in questo Revolt, o ricordo male? Ma è casuale la cosa, no, c'è spagnolo perché c'è Storia Triste, che è un pezzo degli Escorbuto, una grandissima band storica, una delle band che hanno fatto la storia, diciamo, del punk più nichilista, più proprio vero punk degli anni Ottanta, qua nei paesi, diciamo, della penisola iberica, abbiamo voluto inserirlo. Precedentemente avevamo fatto un pezzo della Polla Records, abbiamo voluto inserire di quest'anno invece un pezzo dello Scorbuto, perché comunque la musica diciamo, chiamiamola spagnola, iberica, ha sicuramente molto influenzato anche, diciamo, un po' tutta la scena mondiale. Sono delle band molto importanti e che magari non sono tanto conosciute fuori dai confini, diciamo, della penisola iberica, e per noi è importante far conoscere al grande pubblico anche queste band che solitamente sono più conosciute nei paesi di lingua ispanica. Ok, quindi mi stai, comunque nel prossimo, se puoi, piccolo spoiler, ci saranno qualche pezzo italiano, ovviamente, un po' come sempre, nel prossimo disco? Sì, sì, sì. Ok. Allora, in questo periodo mi stanno venendo più fuori... Mi sa che devi... Escono più pezzi in inglese. Per il semplice fatto che parlo più inglese maccheronico, sempre maccheronico, che italiano, perché siamo sempre in giro per il mondo, e quindi Parli certo. Qua in Spagna, perché in Spagna parlano pochissimo l'inglese, quindi qua si parla tra italiano e dialetto veneto, che lo capiscono abbastanza bene. Fantastico, l'importante è farsi capire bene o male. Pronto, ci sei? Sì, sì, ti sento, ti vedo fermo. Ti sento. Io ti sento. Ci sei sempre? Sì, sì, ci sono. Come sei messo tu sempre con l'orario? Ecco, perché io ti vedo le immagini. Sono già in ritardo, vado dentro. Adesso entro, aspetta che entriamo un attimo. Ok. Aspetta che ci sono delle... concerto per quando? Diretta, hola. Live, Radio Italia. Radio Italia, La Farfalle, Farfalle, La Farfalle Azzurre. Pronti? Fantastico. Oh. Seconda parte di Stormo Rock, c'è sempre il collegamento con i Los Fastidious, ma in questa seconda parte siamo finché anche lei dovrà salire sul palco, perché ricordo che i Los Fastidious sono in Spagna e sono sul palco adesso, sostanzialmente c'è il cambio di referente, diciamo, c'è Elisa qui con me adesso. Ciao Elisa, come va? Ciao a tutti, ciao, tutto bene, dai, il concerto è già iniziato, sta finendo la prima canzone. E qua l'atmosfera è bellissima, una bellissima domenica pomeriggio a Barcellona e con diretta radio. Fantastico, infatti mi piace un sacco, perché c'è anche un po', come dicevamo prima, nel fuori onda radio, un attimo di ansia, sì, da parte mia, che magari anche da parte vostra, perché dici, riuscire a fare entrambe le cose in modo bello, comunque capibile, non è facile. Però... Non è facile, però ce la stiamo facendo e quindi questo è un ottimo traguardo. Ovviamente non ti terrò fino alla finissima, perché sennò anche tu hai il tuo tempo per dover salire sul palco e quant'altro, mettere e appoggiare tutti i tuoi indumenti e sistemarti leggermente un attimo, quindi un paio di domande e poi ti lascio andare. Elisa, che è sempre certo. più presente nei Los Fastidios, quindi anche tu hai dato il tuo contributo all'interno dell'album, quindi ci sono parti che scrivi anche tu nei testi o parte tutto no, Enrico? No, in realtà è Enrico che scrive tutti i testi. Ovviamente lo facciamo insieme, stando vivendo anche insieme la nostra vita privata, quindi siamo insieme, però in realtà Enrico scrive tutto lui. Invece come le tue parti, come vengono decise? Nel senso, quando dici ok, qui canta Enrico, qui canti tu, come viene fuori quello? Diciamo che va un po' a sentimento. Ah, ok, ok. Come capita? Ma sì, si prova, si vede cosa va bene, cosa è più portato per me, cosa invece no, e dopo io prediligo sempre le canzoni più ska, di quelle punk, e ecco, queste qua sono un po' le scelte, diciamo. Soprattutto una scelta musicale. Soprattutto la scelta musicale, sicuramente tanto più canzoni ska che punk. Ok, magari sì, perché per magari anche per tonalità, dato che magari le volte lo ska è quello un po' più tranquillo, riesce a mantenere un attimo meglio la questione. No, vabbè, va bene. La domanda magari un po' classica, però non mi ricordo se te l'ho mai fatta, perché principalmente parlando con Enrico riusciamo a infilarti alle volte il giusto, diciamo. Ma qual è il tuo pezzo preferito dell'album? Che non era saltato fuori prima? Di Revolt? Sì, di quest'ultimo qua. Allora, sicuramente I Don't Wanna Say To You Goodbye. Ah, ok, fantastico, che è quella di Enrico che diceva del... adesso... mi dispiace magari ricordarlo, però era quel momento del cagnolino, della cagnolina che sentiamo particolarmente. No, beh. Comunque direi che tutto l'album mi piace moltissimo, ovviamente, e I Don't Wanna Say To You Goodbye è una canzone che sento particolarmente. Only You è una bellissima cover che mi piace da pazzi e sono contentissima di aver avuto la possibilità di interpretarla. Ma sì, un po' tutti i pezzi. Ecco, direi I Don't Wanna Say To You Goodbye e Only You. Benissimo, dai, ci stanno effettivamente. Ho visto che anche tra tutte le date, le tantissime date che fate in giro per l'Europa, tornate anche ogni tanto in Italia, che se non mi ricordo male avete una data a fine aprile a Modena e avete un'altra a giugno a Genova, se non mi ricordo male. Ne salteranno fuori delle altre in Italia, sì, o per adesso sono solo queste? Sì, allora in realtà il 28 aprile appunto siamo a Modena al Vibra insieme a Money and Friends e T-Rex Squad, e a Genova a giugno, adesso non mi ricordo il giorno, comunque è la prima settimana di giugno, a Genova al Che Festival Music for Peace, che è un bellissimo evento benefico, e poi il 2 dicembre suoneremo a Verona e riorganizzeremo il Cobb Festival al The Factory a Verona con anticipo già delle band che non abbiamo mai dichiarato, ma dicene un paio. Ci saranno gli Atarassia Group, okay, che quest'anno festeggiano i 30 anni e faranno un concerto al mese, tra cui il concerto, quello nel Triveneto, sarà appunto a Verona, e poi ci sono altri nomi come Scassapanca, FFD, Ashpipe, Mauri Clash City Rocker, insomma sarà un bel festivalino con una decina di band. Oh, bene, vabbè, mi fa piacere che hai dato qualche piccolo spoiler su quello che ci sarà, dai, perché ci stava, dai, alla fine non è nulla di male. Io come facevo con Enrico, ti chiedo come sei messa con i tempi, perché io sto bene o male a quello, come sei messa tu? Non dovrei entrare a sentire che canzone c'è adesso, però vabbè, dai, ancora 5 minuti. Sì, esatto, perché se no, dato che comunque non ho neanche io troppissimo tempo, dato che sono le 19:30, quindi come dico anche da casa chi ci sta seguendo, è un'intervista un po' particolare, quindi anche io mi sto regolando insieme con loro in diretta, quindi non c'è nulla di registrato, non c'è nulla di particolare, quindi quello che sentite sono veramente i dialoghi che stiamo avendo adesso. Io a sto punto, Elisa, per non fare casini dell'ultimo minuto. Io vi ringrazio gentilmente un'altra volta, mi ha fatto un sacco di piacere questo vostro sbattimento anche da parte vostra per questa doppia intervista. Ma figurati, è più che un piacere davvero, poi quando una radio ci dà spazio insomma è una cosa bellissima, quindi grazie mille a te Danilo, grazie a tutti quanti gli ascoltatori, grazie a quelli che ci stanno guardando su Instagram, grazie a tutti quanti, è stato proprio bello, è proprio bella questa cosa. Esatto, da rifare. Particolare, magari con un pochino più di tempo, però va bene lo stesso. Io allora a sto punto Elisa vi ringrazio, saluta anche Enrico da parte mia e vi lascio che così hai anche tu il tempo di sistemarti e preparare per andare sul palco. Io vi saluto grazie che così mille. Continuo però l'ultima. Dimmi. Serve solo il tempo per andare a ordinarmi una birretta per il palco e poi sono a posto. Perfetto. Non ho grandi necessità. Ciao Elisa, ci vediamo alla prossima. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.